Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan gettò un'occhiata curiosa su Milady. Era pallida e aveva gli occhi stanchi, per il piangere e per l'insonnia. Sebbene fosse stato di proposito diminuito il numero delle luci, ella non riusciva a celare le tracce della febbre che da 2 giorni la divorava. D'Artagnan le si accostò con la consueta galanteria. Ella fece un supremo sforzo per accoglierlo, mai però una faccia più sconvolta smentì un più amabile sorriso. Alle domande rivoltele da D'Artagnan sulla sua salute, rispose cattiva, molto cattiva. Ma allora, aggiunse D'Artagnan, la mia presenza è inopportuna. Avete sicuramente bisogno di riposo e mi congedo subito. No, rispose Milady, tutt'altro, monsieur D'Artagnan. La vostra simpatica compagnia mi distrarrà. Il giovane pensò, oh, non è mai stata così gentile. Diffidiamo. Milady cercò di mostrarsi il più affettuosa possibile e di rendere briosa la conversazione, ma la febbre, che per un attimo l'aveva abbandonata, tornava a ridonarle splendore agli occhi, colorito alle guance, carminio alle labbra. D'Artagnan ritrovò la Circe che già l'aveva irretito con i suoi incantesimi, l'amore che gli credeva spento ed era soltanto sopito, gli si ridestò in cuore. Milady sorrideva e D'Artagnan sentiva che si sarebbe dannato per quel sorriso. Un momento provò come un'ombra di rimorso per quel che le aveva fatto di male. A poco Milady divenne più comunicativa. Chiese a D'Artagnan se avesse un amante. «Ahimè», disse il giovane con l'espressione più tenera che gli venne fatto di prendere. «Potete essere tanto crudele da farmi una simile domanda a me, che da quando vi ho veduta non respiro e non sospiro che grazie a voi e per voi». Milady sorrise di un sorriso ambiguo. «Allora mi amate», disse. «Ho bisogno di dirvelo e non ve ne siete accorta?» «Sì, certo, ma come sapete, più i cuori sono orgogliosi, più sono difficili da conquistare». «Oh, le difficoltà non mi atterriscono», disse D'Artagnan. «Le impossibilità soltanto mi spaventano». E D'Artagnan avvicinò rapidamente la sua seggiola a quella di Milady. «Su via», disse Milady. «Che fareste per provare l'amore di cui parlate?» «Tutto ciò che si vuole da me. Mi si comandi e sono pronto». «A tutto?» «A tutto», esclamò D'Artagnan, che già sapeva che non arrischiava granché impegnandosi in tal modo. Milady stette un attimo sopra pensiero e come incerta, poi sembrò decidersi. «Ho un nemico», disse. «Voi, signora?» esclamò D'Artagnan fingendosi sorpreso. «Possibile, mio Dio! Bella e buona quale siete! Un nemico mortale, davvero! Un nemico che mi ha insultata così crudelmente che tra lui e me c'è una guerra a morte. Posso contare sul vostro aiuto?» D'Artagnan capì immediatamente dove volesse arrivare la vendicativa creatura. «Lo potete, signora», disse con enfasi. «Il mio braccio e la mia vita vi appartengono, come il mio amore». «Ditemi il nome dell'infame che ha potuto far piangere i vostri begli occhi», esclamò D'Artagnan. «Chi vi ha detto che ho pianto?» disse Milady. «Mi pareva le donne come me non piangono», replicò Milady. «Tanto meglio. Su via, ditemi come si chiama. Pensate che il suo nome è tutto il mio segreto. È forse uno dei miei amici?» riprese D'Artagnan fingendosi esitante per meglio dimostrare la sua ignoranza. «Se fosse uno dei vostri amici, esitereste?» esclamò Milady. E un lampo minaccioso le passò negli occhi. «No, fosse anche mio fratello!» gridò D'Artagnan come trascinato dall'entusiasmo. Il nostro guascone avanzava senza rischio, perché sapeva dove andava. «Mi piace la vostra dedizione», disse Milady. «Solo questo amate in me», domandò D'Artagnan. «Amo anche voi», disse ella prendendogli la mano. E la stretta ardente fece fremere D'Artagnan come se, al tatto, la febbre che divorava Milady si impadronisse anche di lui. «Allora voi mi amate, voi!» esclamò. «Se così fosse, ci sarebbe da perdere la ragione». E la cinse con le braccia. Ella non cercò di scostare le labbra dal bacio di lui, ma non glielo rese. Quelle labbra erano fredde. Parve a D'Artagnan di avere baciato una statua. Ciò nonostante, era ebbro di gioia, elettrizzato dall'amore. Stava quasi per credere alla passione di Milady, alla colpa di De Wardes. Se in quel momento avesse avuto De Wardes sotto mano, l'avrebbe ucciso. Milady colse l'occasione. «Si chiama», disse a sua volta. «De Wardes, lo so», esclamò D'Artagnan. «E come lo sapete?» chiese Milady afferrandogli entrambe le mani e cercando di leggergli attraverso gli occhi fino in fondo all'anima. D'Artagnan capì di essersi lasciato trasportare e di avere commesso uno sbaglio. «Dite, dite, su, dite», ripeteva Milady, «come lo sapete?» «Come lo so?» chiese D'Artagnan. «Sì, lo so perché ieri De Wardes, in un salotto in cui ero anch'io, mostrava un anello dicendo di averlo avuto da voi». «Miserabile!» esclamò Milady. L'epiteto, come possiamo capire, si ripercosse fino in fondo al cuore di D'Artagnan. «Allora», incalzò lei, «allora vi vendicherò di quel miserabile», affermò D'Artagnan. «Grazie, mio valoroso amico», esclamò Milady. «E quando sarò vendicata?» «Domani», egli disse. «Sarete vendicata o io sarò morto?» «No», disse ella, «mi vendicherete, ma non morrete. È un vile. Con le donne può darsi, ma non con gli uomini. Ne so qualcosa, io. Ma mi sembra che nel duello con lui non abbiate avuto da lamentarvi della fortuna. La fortuna è una cortigiana. Favorevole ieri, può tradirmi domani. Il che significa che adesso esitate?» «No, non esito. Dio me ne guardi. Ma sarebbe giusto lasciarmi andare a una morte possibile, senza avermi dato almeno qualcosa di più della speranza?» Milady rispose con un'occhiata che significava: «Non è che questo? Su, via, parlate». Poi, accompagnando l'occhiata con chiare parole: «È troppo giusto», disse teneramente. «Siete un angelo», rispose il giovane. «Allora è tutto deciso?» ella chiese. «Tranne ciò che vi chiedo, anima mia. Ma se vi dico che potete fidarvi del mio amore, non ho un domani per aspettare. Silenzio. Sento mio cognato, è inutile che vi trovi qui». Milady suonò il campanello e Ketty apparve. «Uscite per di là», disse aprendo una porticina nascosta, «e tornate alle 11. Termineremo il colloquio. Ketty vi introdurrà». D'Artagnan fece 5 o 6 volte il giro di Place Royale, voltandosi ogni 10 passi per guardare la luce dell'appartamento di Milady che filtrava dalle imposte. Evidentemente adesso ella aveva minor premura della prima volta di tornare in camera sua. Finalmente la luce risparve. E con quella luce si spense nel cuore di D'Artagnan l'ultima incertezza. Ricordò i particolari della prima notte, e con il cuore palpitante, con la testa in fiamme, rientrò nel palazzo e si precipitò nella stanza di Ketty. La ragazza, pallida come una morta, tremante in tutte le membra, volle trattenere l'amante, ma Milady, che stava tutto orecchi, aveva sentito il rumore fatto da D'Artagnan e aprì la porta. «Venite», disse. Tutto ciò era di un'impudenza così incredibile, di una sfrontatezza così mostruosa, che a stento D'Artagnan poteva credere a ciò che vedeva e udiva. Gli pareva di essere travolto in uno di quei fantastici intrighi che si concepiscono in sogno. Tuttavia si precipitò incontro a Milady, cedendo all'attrazione che la calamita esercita sul ferro. La porta si richiuse alle loro spalle. A sua volta Ketty si buttò contro la porta. La gelosia, il furore, l'orgoglio offeso, insomma tutte le passioni che si contendono il cuore di una donna innamorata, la spingevano a rivelare la verità. Ma se confessava di aver avuto parte in un simile imbroglio, era perduta. E soprattutto D'Artagnan era perduto per lei. Quest'ultimo pensiero d'amore le consigliò ancora l'ultimo sacrificio. Dal canto suo D'Artagnan era giunto all'apice di ogni suo desiderio. Non era più un rivale che Milady amava in lui, ma era lui stesso che ella sembrava amare. Una voce segreta lo avvertiva, bensì in fondo al cuore, che gli era soltanto uno strumento di vendetta, accarezzato in attesa che desse la morte. Ma l'orgoglio, ma l'amor proprio, ma la follia facevano tacere quella voce, soffocavano quel bisbiglio. E poi il nostro guascone, con quella dose di presunzione che gli conosciamo, si paragonava ad Evard e si domandava perché, in fin dei conti, anche lui non avrebbe potuto essere amato per se stesso. Si abbandonò quindi totalmente alle sensazioni del momento. Milady non fu più per lui la donna dalle intenzioni funeste che per un attimo l'aveva spaventato. Fu un'amante ardente e appassionata, in preda a una passione che ella stessa sembrava provare. Trascorsero così quasi 2 ore. Poi gli slanci dei 2 amanti si calmarono. Milady, che non aveva gli stessi motivi di D'Artagnan per dimenticare, tornò per la prima alla realtà e chiese al giovane se avesse già chiara nella mente la linea di condotta che avrebbe seguito l'indomani per provocare lo scontro fra lui ed Evard. Ma D'Artagnan, i cui pensieri avevano preso tutt'altra strada, si smarrì come uno sciocco e rispose galantemente che era molto tardi per occuparsi di duelli a colpi di spada. Non potremmo dire quanto durò la notte per Milady, ma D'Artagnan credeva di essere accanto a lei da 2 ore appena, quando l'alba trapelò dalle fessure delle imposte e di lì a poco invase la stanza con il suo livido chiarore. Allora Milady, vedendo che D'Artagnan stava per lasciarla, gli ricordò la promessa di vendicarla di Devard. «Sono prontissimo», affermò il giovane, «ma prima vorrei essere sicuro di una cosa». «Di quale?» chiese Milady. «Che voi mi amate». «Ve ne ho dato la prova, mi pare». «Certamente». «Ma se mi amate, come dite», proseguì D'Artagnan, «non temete un pochino per me?» «Che posso temere?» «Ma insomma, che io sia ferito gravemente, anche ucciso?» «Impossibile», disse Milady. «Siete un uomo così prode e una così buona lama». «Dunque non preferireste», insinuò D'Artagnan, «un mezzo che pur vendicandovi rendesse inutile il combattimento?» Milady guardò l'amante in silenzio. La luce livida dei primi bagliori del giorno dava ai suoi occhi chiari un'espressione stranamente sinistra. Questa volta disse: «Mi pare che esitiate davvero». «No, non esito. Ma quel povero Devard mi fa veramente compassione, da quando voi non l'amate più». «Ma chi vi dice che io l'abbia amato?» chiese Milady. «Perlomeno ho motivo di credere, senza peccare di vanità, che adesso ne amiate un altro», disse il giovane con inflessione carezzevole. «E ve lo ripeto, mi interesso al conte». «Voi?» «Sì, io». «E perché voi?» «Perché io solo so...» «Che cosa?» «Che è ben lungi dall'essere, o meglio, dall'essere stato così colpevole verso di voi come pare». «Parlate», disse Milady inquieta. «Spiegatevi». «Ebbene, mi sento come trascinato. Una confessione mi pesa». Con i più soavi dei sorrisi, D'Artagnan tentò di avvicinare le sue labbra a quella di Milady, ma essa lo respinse. «Di che confessione?» disse impallidendo. «Di che confessione si tratta? Avevate dato appuntamento ad Evard giovedì scorso in questa stessa camera, non è vero?» «Io no, non è vero», disse Milady con voce così ferma e un viso così impassibile che, se D'Artagnan non ne avesse avuto la certezza assoluta, ne avrebbe dubitato. «Non mentite, mio bell'angelo», disse D'Artagnan sorridendo. «De Ward non può vantarsi di niente». «Perché? Voi stesso mi avete detto che l'anello, amore mio, è in mano mia. Il duca De Ward di giovedì e il D'Artagnan di oggi sono la stessa persona». Lo sconsiderato si aspettava una sorpresa mista a vergogna, una piccola burrasca che si sarebbe risolta in lacrime, ma sbagliava di grosso e il suo errore non durò a lungo. Pallida e tremenda, Milady si drizzò e, respingendo D'Artagnan con un violento colpo al petto, si buttò giù dal letto. D'Artagnan la trattenne per la vestaglia di sottile tela d'India, onde implorarne il perdono, ma lei, con uno strattone violento e deciso, cercò di sottrarglisi. La batista si lacerò scoprendo a nudo le spalle, e su una di quelle belle spalle bianche e rotonde, D'Artagnan, con un turbamento indescrivibile, riconobbe il giglio, il marchio indelebile che imprime la mano infamante del carnefice. «Gran Dio!» esclamò D'Artagnan lasciando andare la vestaglia e rimase muto, immobile sul letto come di ghiaccio. Ma Milady si sentiva denunciata dal terrore stesso di D'Artagnan. Senza dubbio questi aveva veduto. Adesso il giovane conosceva il suo segreto, segreto terribile, ignorato da tutti, tranne che da lui. Ella si voltò non più come una donna infuriata, ma come una pantera ferita. «Ah, miserabile!» disse. «Mi hai tradita vigliaccamente e per di più possiedi il mio segreto. Morrai!» E corse a un cofanetto intarsiato deposto sulla toeletta. L'aprì con mano febbrile e tremante. Ne trasse uno stiletto dall'impugnatura d'oro, dalla lama aguzza e sottile, d'un balzo tornò su D'Artagnan seminudo. Benché il giovane fosse ardimentoso, come sappiamo, fu atterrito da quella faccia sconvolta, da quelle pupille orribilmente dilatate, da quelle guance pallide e da quelle labbra color sangue. Indietreggiò fino all'alcova, come avrebbe fatto all'avvicinarsi di un serpente che fosse strisciato su di lui, e incontrata sotto la mano madida di sudore la spada, la trasse dal fodero. Ma senza preoccuparsi della spada, Milady cercò di risalire sul letto per colpirlo, fermandosi soltanto quando sentì sulla gola la punta aguzza. «Bene, bella signora, bene!» diceva D'Artagnan, «ma calmatevi, in nome di Dio, o vi disegno un altro giglio sull'altra spalla!» «Infame! Infame!» urlava Milady, ma D'Artagnan, sempre continuando a cercare la porta, si teneva sulla difensiva. Al chiasso che facevano, lei rovesciando i mobili per raggiungerlo, lui riparandovisi dietro per tenerla lontana, Ketty aprì la porta. D'Artagnan, con un salto, balzò dalla stanza di Milady in quella della cameriera e, rapido come il fulmine, richiuse la porta, appoggiandovisi con tutto il suo peso mentre Ketty faceva scorrere i cavistelli. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.